Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Data Breach, meazza, matala su. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Sì, viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure. Viaggiare, Deborah, viaggiare, è una parola viaggiare, cara mia. Sei preparata? A questo periodo? Stai studiando? No, tu dirai, guarda, perché ti devo dirò studiare? Preferisco starmene ancora bella ferma fino a quando non avrò la certezza della possibilità di spostarmi come meglio credo, come meglio creda, come si dice. Guarda, mi viene bene la declinazione. Va bene l'incongiuntivo, ma anche l'indicativo, ma anche, guarda, se qualcuno dei nostri ascoltatori vuole confortarci, sicuramente potrà farlo ai numeri abituali. Subito. Guarda, volevo dirti, devi studiare, perché io ho qui davanti e sto anche mostrando a chi ci segue sui social, su Facebook, Twitter, YouTube. Una sorpresona? Sorpresona. Ho qui una chilata di carta che comprende l'ultimo DPCM, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che è quello del 14. Quello lì non è lunghissimo, comprende però anche il rimando, perché in realtà cosa fa quello del 14 luglio? Mi richiama quasi tutto quello dell'11 di giugno. Allora, certo, tu devi avere quello dell'11 di giugno, sostituire alcune parti che vengono sostituite da quello del 14 di luglio, alcuni degli allegati, e allora così avrai questa collazione con due L, una collazione di testi che puoi agevolmente portarti in giro disponendo di una borsa abbastanza capiente e anche di una spalla come robusta. Come quella sicuramente dell'avvocato Valerio Vallefuoco, che più tardi ci spiegherà tutte le cose belle contenute in questo documento, soprattutto quelle che ci interessano di più, se dobbiamo e dove portare ancora la mascherina, dove possiamo andare, quanti possiamo viaggiare in auto, dobbiamo portare o meno, cioè dobbiamo imbarcare il bagaglio oppure possiamo portarlo con noi e metterlo nella cappelliera, tutte quelle questioni lì carine, insomma, per i trasporti. Proprio che si sono così riproposte con questo provvedimento. Che poi hai sentito nel giornale radio, il traffico aereo comunque sta lentamente riprendendo, insomma è raddoppiato da giugno, quindi insomma è chiaro che il lockdown, la quarantena, il blocco hanno pesato e stanno tuttora pesando, peraltro appunto anche sul settore turistico, per dire, però piano piano qualche segnale di ripresa si vede, e allora è importante conoscere le regole. Noi faremo un riassunto a beneficio di tutti tra poco proprio qui a Due di Denari. I numeri sono quelli abituali se volete chiederci qualcosa: 800 24 00 24, oppure messaggi via SMS o WhatsApp al 349 238 6666. A proposito di spostamenti, ma secondo te andrà più qualcuno ad Enna prossimamente, visto che non c'è più nessuna struttura alberghiera che ha la possibilità appunto di accogliere i turisti che vogliono visitare questa bella parte della Sicilia? Ma forse ha chiuso questo unico albergo che era rimasto perché non accettava il bonus vacanze? Così mi sono un po' interrogata anche sulle ragioni di questa fine, poveretti. Temo che questa notizia, che segna un po' la chiusura di qualsiasi ospitalità possibile alberghiera a Enna Alta, il piccolo albergo si chiama Hotel Bristol, piccolo albergo a 3 stelle, che era rimasto nel pieno centro storico ed era l'unico in funzione nel capoluogo. Quindi in questo momento soltanto ospitalità da amici, verrebbe da dire, perché così risulta almeno dalle cronache. Non so se qualcuno ci sta ascoltando da Enna può confermare o smentire questa impossibilità di soggiornare in albergo a Enna. I numeri sono quelli che vi ho già ricordato prima. Cara Deborah, però io vorrei fare un piccolo giornale del risparmio. Certo. E poi c'ho anche un approfondimentino di sapore quasi fiscale, mi raccomando. Quasi, diciamo immobiliare fiscale, che è un rapporto che ai nostri ascoltatori appassiona sempre tanto, e quindi li accontentiamo anche questa mattina. Ma prima, giornale radio del risparmio. Ci dicono spesso di lavarci le mani, ma poi ci ascoltiamo. Me a zero shani. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto, forse niente, da domani si vedrà e sarà, sarà quel che sarà. Allora, è colpa mia, mi voglio costituire, Deborah. Ho detto cosa, io, cosa combinato? Mettiamo i ricchi e poveri, perché ci sono... C'è una notizia sui ricchi, beati loro, verrebbe da dire, e una invece sul sovraindebitamento e un'altra ancora sul reddito di emergenza. E quindi ho detto, vabbè, come dire, le disuguaglianze esistono a questo mondo e permangono, ohimè, e allora diamo queste notizie, raccogliamole sotto così la tutela, in qualche modo, del gruppo vocal musicale dei ricchi e poveri. Da dove vuoi cominciare? Dai ricchi o dai poveri? Cominciamo con questo, cominciamo dai poveri, con questo affresco che ha rilasciato un'organizzazione dei consumatori, il Movimento Difesa del Cittadino, perché c'è da dire che effettivamente i cittadini, le famiglie in difficoltà si rivolgono anche all'Associazione dei Consumatori per provare a capire come gestire questa situazione d'emergenza nella quale molte si trovano. C'è una dichiarazione. Allora, Movimento Difesa del Cittadino che cosa ha fatto? Ha commentato un po' alcuni numeri recenti rilasciati dall'Istat, che ancora una volta ci raccontano come siano crollati tra marzo, aprile e maggio i consumi, appunto, delle famiglie italiane e anche la spesa delle famiglie. C'è l'ultimo bilancio rilasciato dall'Istat, è quello dell'ultimo trimestre, appunto, del scorso. Il Movimento Difesa del Cittadino, appunto, ha segnalato che una riduzione dei redditi per oltre il 50%, ha segnalato questa riduzione dei redditi che riguarderebbe almeno il 50% delle famiglie italiane, che di conseguenza per questa situazione rischia di sovraindebitarsi. L'impatto della crisi è più negativo fra i lavoratori dipendenti, dice Francesco Luongo, che è il presidente di questa organizzazione dei consumatori. Quasi l'80% ha subito un calo nel reddito, per il 36% la caduta è di oltre la metà del reddito familiare, per cui si richiama l'attenzione su politiche che possano integrare i redditi delle famiglie in difficoltà. Ma le famiglie in difficoltà, caro Mauro, come oggi ci racconta molto bene il Sole 24 Ore, in realtà non avrebbero utilizzato molto il reddito di emergenza, che è questa misura, appunto, predisposta appositamente per nuclei familiari in situazione finanziaria molto compromessa. Come mai? E come mai sarà difficile anche decifrarlo, però sostanzialmente potrebbero aver pesato, possono star pesando, le difficoltà anche operative, le complicazioni burocratiche che sottostanno, che condizionano l'erogazione di questo reddito di emergenza. I numeri però, insomma, sono abbastanza eloquenti, perché al 7 luglio l'INPS ha ricevuto 478.000 richieste e il governo se ne attendeva il doppio, 868.000. Peraltro di 478.000 sono in pagamento nemmeno 200.000, 190.000 per la precisione. Quindi mancano due settimane alla chiusura del termine per presentare la domanda all'INPS e evidentemente le domande restano al di sotto. La misura, che è proprio destinata alle famiglie in maggiore difficoltà economica, potrebbe essere così condizionata dai vincoli che sono stati imposti e che neanche la proroga al 31 luglio ha rimosso. Vedremo se questa è la ragione, se magari assistiamo adesso a un incremento. C'è da dire che le varie scadenze che si sono accumulate, tra cui quelle fiscali che adesso stanno riprendendo in grande quantità, potrebbero aver giocato un po' contro l'ordinata presentazione di queste richieste. Vedremo se è così. Chiudiamo con chi invece sta bene, beata lei, insomma, stanno bene. Cioè le famiglie più ricche del mondo, che fanno fruttare il loro patrimonio in modo adeguato. Allora, è uno studio mondiale di UBS e dice che oltre il 77% delle famiglie più ricche a livello mondiale, da inizio anno fino a maggio, ha avuto delle performance di portafoglio in linea o addirittura superiori a quello che si erano prefissati. Il rapporto è un rapporto periodico, viene emesso tutti gli anni, Global Family Office Report, l'edizione del 2020, appunto, si concentra sulle reazioni ai cambiamenti che sono stati imposti dalla pandemia. Ovviamente, avendo più disponibilità, c'è anche più disponibilità di persone, di consulenti di alto livello, che evidentemente strumenti aiutano a gestire le sostanze, e quindi oltre tre quarti degli intervistati hanno dichiarato che da inizio anno a maggio la performance dei portafogli è stata sia o in linea o addirittura superiore, e comunque la metà di questi family office ha riequilibrato il portafoglio tra marzo, aprile e maggio, e quindi ha puntato su allocazioni, su asset, su voci di lungo periodo. Queste sono alcune delle indicazioni che giungono appunto dal report di UBS. Deborah. Ma in realtà ci sono anche un altro paio di elementi interessanti in questo rapporto, Mauro, perché questi portafogli di queste persone molto abbienti, tanto che appunto possono permettersi di avere una consulenza esclusivamente dedicata, sono delle famiglie di grandi disponibilità finanziarie, hanno incrementato l'allocazione in oro con l'intento di tenerlo nel lungo termine, stanno puntando ad incrementare la propria esposizione nel mercato azionario, ma ascolta, vogliono incrementare a quanto pare queste persone anche le allocazioni nel settore immobiliare. E quindi? E quindi noi andiamo subito al primo tema della nostra giornata. E allora, grazie a Filippo Aureggi che con valentia ha subito giocato la sigla, mentre dietro di lui con scaramanzia sorveglia il tutto Elisabetta Baba Fusconi, sotto la supremazia naturalmente di Marco Lombardo. Il primo ospite che abbiamo questa mattina, che abbiamo raggiunto questa mattina telefonicamente, è Mirko Mion, che è il presidente di AGEFIS, Associazione dei Geometri Fiscalisti. Bentornato a Due di Denari, Mion. Buongiorno Mauro, buongiorno Deborah, grazie per l'invito e un saluto agli ascoltatori. Mirko, ti abbiamo invitato perché nell'atto di indirizzo sulle politiche fiscali, cioè insomma sarebbe a dire quello che devono fare le agenzie per andare così alla ricerca del gettito dovuto naturalmente da parte dei contribuenti o sedicenti tali, insomma in questo atto di indirizzo si torna a parlare di emersione degli immobili fantasma. Allora, prima cosa, io pensavo che questo fenomeno oramai l'avessimo debellato, cioè immobili mai dichiarati al catasto. Scopro invece che molto sarebbe ancora da fare, è così? Beh, effettivamente sì, giusto per fare un punto della situazione, attorno negli anni tra 2007 e 2009 sono stati individuati attraverso un lavoro di, diciamo così, di fotografia aerea, di aerofotogrammetria, sommato alle mappe catastali, tutti quegli immobili sconosciuti al fisco, cioè sostanzialmente attraverso questa rilevazione fotografica per sottrazione sono venute fuori dalle foto tutti quei manufatti che risiedono sul territorio nazionale. Erano circa 2.200.000. È stato emanato un decreto legge, il 78 del 2010, che permetteva, come dire, l'autodenuncia, l'emersione di questi immobili, e seppur diciamo così in una prima fase con maggior numero, ma poi pian piano sempre meno, ha portato all'emersione, però diciamo così in qualche modo al 50% degli immobili sconosciuti al fisco. Attualmente gli ultimi numeri che ci fornisce l'Agenzia delle Entrate sono 1.127.000 quelli non ancora accatastati. Va detto, sì, sono il 50%, però va detta anche una cosa, perché attraverso queste fotografie aeree molte volte vengono anche rilevate, lo dico molto in modo molto semplicissimo, le cosiddette cataste di legna. Ci sono delle cataste di legna con delle tettoie al di sopra che una foto dall'alto rileva come se fosse un immobile. Quindi è un'attività in parte delegata al cittadino con una sorta di autodenuncia, ma dall'altra parte anche un'attività che dovrebbero svolgere i comuni in maniera puntuale, andando a verificare se effettivamente esiste un manufatto immobiliare non accatastato, oppure si tratta anche semplicemente, come dicevo, di un errore. Di una capanna, ecco. Un deposito per di la legna, capanna, esatto. Un deposito, quindi... Prego Deborah. No, quindi dico è abbastanza difficile che un immobile residenziale dove una famiglia abita, dove una persona abita, appunto possa essere irregolare dal punto di vista catastale, oppure può essere anche che un'abitazione dove si risiede può essere irregolare dal punto di vista proprio della valorizzazione catastale, definiamola così. Può accadere. E quando può lo scopriamo, sì, soprattutto. Purtroppo. Purtroppo io adesso mi ricordo un fatto purtroppo tragico di circa un anno e mezzo fa, nella provincia di Palermo, ricordiamo la villetta di Casteldaccia, no? Quella che era stata travolta dal fiume in piena, il fiume ah, sì, Milicea, che uccise due persone. Quella era una di quelle case fantasma, non era catastata, era priva di regolarità, il comune lo sapeva, questo insomma ce lo dicono gli atti della Procura della Repubblica, nulla è stato fatto, e quindi non soltanto c'è un aspetto, per così dire, catastale, quindi fiscale, successivamente anche di regolarità edilizia per quanto riguarda eventualmente le compravendite, ma c'è anche una questione proprio di tutela del territorio, tutela delle vite, di sicurezza, la possibilità di intervenire sul territorio in maniera, lo vediamo in questi giorni con la bomba d'acqua a Palermo, no? Poter intervenire in modo tempestivo per poter mettere in sicurezza il territorio in via preventiva, ma anche nel momento di emergenza particolare di poter intervenire in modo tempestivo, no? Il catasto è anche utile, e quindi le piantine in modo, come dire, puntuale per l'intervento eventualmente dei vigili del fuoco in situazioni emergenziali come così, movimenti sismici, ma anche banalmente semplicemente la necessità anche di un inter... certo, un allagamento che potrebbe dover provocare l'intervento. Ecco, quindi però sono molteplici le motivazioni che dovrebbero spingere tutti i cittadini italiani, perché poi parliamo di case fantasma, ma dovremmo parlare altresì del disallineamento di quelle che sono, seppur censite in catasto, le abitazioni, il disallineamento poi della realtà, perché sappiamo tutti che una porzione del patrimonio immobiliare italiano, seppur censito, è parzialmente abusivo, cioè alcune porzioni di immobili non sono state denunciate per più svariati motivi. Questo implica sicuramente un minor gettito al fisco attualmente, ma dall'altra parte, come dicevo, anche problematiche di sicurezza. Ho due domande. La prima è molto, diciamo, improntata all'oggi. Visto che nell'atto di indirizzo, Presidente Mirko, visto che nell'atto di indirizzo dato dal Ministro all'Agenzia delle Entrate si dice di andare a cercare gli immobili fantasma, allora se qualcuno avesse il sospetto di non essere in una situazione catastale corretta, quindi comprendendo anche le situazioni che stavi dicendo, cosa deve fare? Cosa deve fare per verificare e come può ovviare a questa situazione? L'altra domanda è più di sistema, ma ti lascerei poi un paio di giorni per rispondere. Ma ci sarà mai una riforma del catasto? Però cominciamo dalla prima, magari. Grazie. Allora, se sono a conoscenza, diciamo, di un disallineamento rispetto all'accatastamento della mia unità immobiliare rispetto alla realtà, la cosa da fare è quella di chiamare un tecnico. Posso rilevare la mia piantina catastale anche attraverso l'accesso al mio cassetto fiscale, quindi, e posso anche altresì agire eventualmente se alcuni aspetti di tipo, come dire, anagrafico non sono corretti, anche in via diretta sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Mentre invece, se devo provvedere a sanare una situazione catastale, è necessario l'intervento di un tecnico che faccia un rilievo puntuale e accatasti quella porzione non correttamente accatastata. Peraltro, anche giusto per dare anche una dimensione di quello che possono essere anche i costi anche per i fabbricati fantasma, siccome ormai sono passati 5 anni dalla legge, quindi si sono prescritte le eventuali sanzioni, si tratta banalmente di spendere 150 euro per unità immobiliare, questo parlo di diritti, oltre alle prestazioni di un tecnico abilitato, in questo caso direi che i geometri sono in prima fila. Importante da dire anche di non confondere la conformità catastale con la conformità urbanistica ed edilizia, quindi soprattutto se abbiamo comprato casa in tempi non così recenti può essere importante delegare lo stesso tecnico a redigere una relazione di regolarità edilizia, che è un documento informativo sull'effettiva regolarità sia catastale sia anche, come dicevo, urbanistica ed edilizia, quindi i suoi titoli abilitativi. Spero di essere stato chiaro. Da un punto di vista della riforma del catasto, mi voglio prendere due minuti, se me lo permettete, nel senso che è una delle Delle cose mi stanno più a cuore. No, perché noi dovevamo già farla nel 2014, mi pare, però poi non se n'è fatto nulla e abbiamo detto, ne parleremo poi. Gli estimi sono stati aggiornati 30 anni fa, quindi insomma ci sarebbe margine, ecco, di miglioramento. Tu hai fatto, Mauro, un'analisi storica brevissima, ma puntuale, nel senso che siamo... Catasto nasce nel lontano 39, nulla cambia più, poi c'è una piccola modifica degli estimi 88-89, poi c'è la legge delega dell'11 marzo 2014, ma nel 2015 cade il governo Renzi più o meno negli stessi giorni e viene abortita la riforma del catasto. Non è più stato fatto nulla, devo dire però è stata fatta qualche cosa, noi abbiamo partecipato a questi lavori, è stata indetta un'indagine conoscitiva da parte della Commissione parlamentare sull'anagrafe tributaria, un'indagine conoscitiva che aveva come titolo per una riforma della fiscalità immobiliare, equità, semplificazione e rilancio del settore, che era centrata su due argomenti, uno a noi caro, quello della riforma del catasto. È stato anche, come dire, prodotto un ottimo documento finale con un indirizzo, diciamo, spacchettato, perché tutti vediamo, come dire, la componente esclusivamente dell'imposizione tributaria sugli immobili, ma come dicevamo poco fa, vediamo poco l'importanza di metterli in evidenza in modo corretto da un punto di vista appunto della sicurezza. Allora, questo documento contiene la riforma, come dire, un rilancio della riforma del catasto, anche perché ci è arrivata ancora lo scorso anno un'indicazione da parte dell'Europa dello spostamento delle imposte dagli immobili, cioè dal lavoro agli immobili, pardon. E queste due velocità dovrebbero portare la prima fase ad un'inventariazione dello stock immobiliare italiano in modo corretto, quindi a rilevare gli immobili fantasma, ad andare ad accatastare con un nuovo modello che non tenga più conto dei vani ma dei metri quadri, che tenga conto anche del posizionamento, quindi tutta una serie di elementi intrinsechi ed estrinsechi dell'immobile, quindi insomma lo stato d'uso, la posizione, per poi successivamente eventualmente pensare di dare un nuovo valore. Il tutto si è sempre, e concludo, arenato, la riforma del catasto non riesce a prendere forma per un semplice motivo, perché si va a scontrare con il timore, anche politico, soprattutto politico, di un aumento dell'imposizione fiscale sugli immobili. Quella famosa parola dell'invarianza di gettito non ha mai trovato una risposta definitiva e quindi si scontra. Quindi dobbiamo immaginare, ed è una cosa che io auspico possa partire al più presto, e grazie a questo lavoro mi auguro che possa essere presentato quanto prima, un ottimo lavoro che ha fatto la Commissione sull'anagrafe tributaria, possa partire la prima fase, quella prodromica, poi eventualmente a modificare il valore degli immobili e l'imposizione fiscale, ma quella prima fase che è: fotografiamo esattamente lo stock immobiliare italiano, facciamo un inventario corretto. L'Agenzia delle Entrate l'ha fatto in questi ultimi anni dei grandi passi in avanti attraverso il miglioramento del SIT, il GeoPoi, tutta una serie di strumenti, l'OMI, tutta una serie di strumenti. Dobbiamo completare un po' questo percorso. Dobbiamo completarla, sì. Credo che siamo molto avanti. Si tratta chiaramente sempre di una volontà politica. Di dare Noi come tecnici siamo a disposizione. La spinta finale. Allora, grazie a Mirko Mion, presidente dell'Associazione Geometri Fiscalisti, l'associazione AGEFIS. E noi tra poco, cioè dopo le borse, torniamo e vi parleremo di obblighi e doveri in questo periodo di fase 2, 3, non me lo ricordo più, mascherina, non mascherina, viaggi, le borse. Ma per favore, vabbè, comunque, arrivederci. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Due di denari. Valerio Vallefuoco, l'avvocato Valerio Vallefuoco è il nostro riferimento obbligato. Cambia il DPCM, o meglio, forse è meglio dire si aggiorna, e noi interpelliamo l'avvocato Valerio Vallefuoco. Bentornato a Due di Denari innanzitutto. Bentornato Mauro, bentornati a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici. Eccoci qui. Allora, come dicevamo prima con Debora, siamo sotto adesso la regolazione di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che è quello del 14 luglio. Però, sì. Ecco, no, però avvocato, mi raccomando, mi segua, mi sostenga, perché ho paura quando mi avventuro su queste cose qua. In realtà questo DPCM del 14 luglio in gran parte, anzi per la stragrande parte, conferma il decreto precedente. Quindi assolutamente siamo sotto la vigenza delle norme precedenti, non è cambiato granché. Quindi, ad esempio, per viaggiare in aereo, in treno, eccetera, c'è sempre il distanziamento? Punto interrogativo. Assolutamente. Allora, per fare diciamo un breve excursus, innanzitutto se avete una bilancia e pesiamo tutti questi provvedimenti, anche proprio solo di carta, superiamo tranquillamente i 10 kg. Per avere un minimo di valutazione, quindi dice qual è la norma in vigore, sostanzialmente bisogna fare riferimento all'ultimo DPCM che fa riferimento in tutto e per tutto al DPCM dell'11 giugno. Quale DPCM dell'11 giugno è quello che aveva tutti poi i famosi protocolli e tutti quei protocolli che poi sono poi utilizzati e utilizzabili ancora adesso. Solo in alcuni casi sono stati cambiati gli allegati e sono l'allegato alcuni allegati connessi alle cerimonie, alla ristorazione, ad alcune schede tecniche relative a ristorazione, uffici aperti al pubblico, palestre, eccetera, però per tutto il resto siamo collegati al DPCM, quello dell'11 giugno, e quindi a tutte quelle misure di famoso distanziamento sociale, sanitarie, mascherine, eccetera. E tutto questo è retto da una decreto legge che poi è stato convertito in legge il 20 maggio, ma che in realtà poi è garantito da una norma che dà delle sanzioni ben specifiche in caso di violazione delle norme igienico-sanitarie. Eccoci qua. Andiamo, avvocato Vallefuoco, sì, magari però ai punti, se ce ne sono in questo provvedimento, in cui qualche allentamento si è manifestato. Allora, c'è un tema importante, intanto vorremmo indicarlo con Mauro, perché ce ne occuperemo la prossima settimana, che sarà l'ultima di Due di Denari, poi andremo in pausa anche noi, ritorniamo a settembre, torneremo sul tema dello smart working per capire in che modalità si lavorerà da settembre e a quanti lavoratori sarà data facoltà di continuare a lavorare in questa modalità, appunto, agile, come si dice tecnicamente. Ma per quello che riguarda un po' di allentamenti, avvocato Vallefuoco, in questo provvedimento ne abbiamo oppure è tutto confermato in senso molto restrittivo precedente del provvedimento? Assolutamente per quanto riguarda gli spostamenti da e per l'Italia, questo diciamo è secondo me la novità sicuramente più evidente, per cui anche io stesso appunto l'ho provata, perché ho dovuto viaggiare per lavoro in Europa ed effettivamente le misure di contenimento sono più sicuramente adatte al fatto che ormai l'Europa e i paesi dell'Unione Europea hanno fatto la malattia ha fatto il suo corso e che quindi i contagi sono pochi e vengono seguite delle linee guida sanitaria abbastanza uniforme. E io su questo ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici consiglio di vedere il sito del Ministero della Salute, che è forse il più aggiornato, l'unico aggiornato, perché il resto dei siti sono rimasti ancora alla precedente versione, ed effettivamente i viaggiatori possono, soprattutto se fanno parte degli stati membri dell'Unione Europea, viaggiare tranquillamente. Ovviamente dovranno però sottoscrivere una dichiarazione, io l'ho fatto quando sono andato in un'altra nazione europea, in cui si dice che si viene appunto dall'Italia e che si sono passati gli ultimi 14 giorni in Italia e ovviamente non si hanno sintomi della malattia. Invece se si viene da paesi non europei rimane la comprovata esigenza lavorativa, l'assoluta urgenza, il motivo di salute o le comprovate ragioni di studio. Questo è assolutamente necessario saperlo. E poi dal 1 luglio 2020 è consentito in ogni caso, senza dover specificare alcuna motivazione, anche l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini di stati terzi di alcuni territori individuati, che sono l'Australia, il Canada, la Georgia, il Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Thailandia, Tunisia, Montenegro e Serbia. E poi ovviamente però resta il cosiddetto obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per tutte quelle persone che fanno un ingresso in Italia da stati o paesi esteri diversi da quelli dell'Unione Europea. E quindi, diciamo, in questo caso dovranno compilare delle dichiarazioni e dovranno sottoporsi a questo isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria. Allora, dopo tanto parlare di viaggi e viaggiare, ascoltiamo le informazioni sul traffico. Due di denari. Si vede, si va, di umana commedia, che c'è chi la spiega e c'è chi viveva. Si vede, si va, comunque. Allora, si viene e si va con le regole del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Rispondo, mi azzardo, Avvocato Vallefuoco, lei però sorvegli sempre quello che io dico. Si viene e si va con queste regole che sono in vigore fino a fine luglio, al 31 luglio, ho detto bene? Corretto, corretto. Quindi dal 31 luglio, arriverà un altro DPCM, non lo sappiamo, però finirebbe tutta questa parte. Ma il meccanismo ormai è collaudato, nel senso che il decreto legge del 30 marzo del 2020, poi convertito, sostanzialmente dà questa possibilità, per cui il Presidente del Consiglio può, riferendo previamente in Parlamento, unitamente al Ministro della Salute, diciamo, prorogare rispetto anche all'evolversi della situazione, perché poi questa è una comunque situazione nazionale, è una pandemia internazionale, quindi di fatto si è cercato un coordinamento anche con tutte le regioni, proprio per evitare che poi ognuno possa fare troppo di testa sua. Viaggiare in auto, Deborah, ce lo chiedono in tanti. Sì. E io volevo anche avere qualche informazione, Avvocato Vallefuoco, sul tema del visitare congiunti in RSA in ospedali. È un tema molto delicato, non so fino a che punto questa norma disciplina questa questione, perché da quello che capisco, a parte le regole generali, ci sono in realtà grandi spazi di autonomia proprio per le direzioni sanitarie delle strutture, per cui paradossalmente si può verificare in Italia che si può tornare a visitare un congiunto al Pio Albergo Tribulzio che a Milano, dove a Milano appunto è successo quello che è successo, in altre regioni d'Italia dove non ci sono più né contagi né decessi, le strutture siano ancora chiuse. C'è qualcosa da dire su questo tema? Allora, sicuramente in questi casi c'è sempre un principio di precauzione, e soprattutto in questi casi purtroppo il principio di precauzione prevede che se ci sono delle norme specifiche generali a livello statuale, poi ci sono delle norme e quindi si scende a livello regionale, a livello anche comunale, poi anche a livello di direzione sanitaria, se c'è una maggiore attenzione anche a causa di un pericolo o di un contagio, effettivamente questo possa avere valore. Evidentemente dal punto di vista sanzionatorio invece comunque ciò che prevale è quella, è la norma nazionale, quindi quando c'è un precetto con una sanzione, questo poi è immediatamente applicabile. Senza la sanzione effettivamente poi si può comunque contestare, quindi diciamo che poi c'è un po' il buon senso, ma il principio di precauzione che poi tutti quanti dobbiamo seguire. Allora, provo, mi avventuro sulla questione viaggi in auto, che è molto gettonata nei vostri messaggi WhatsApp e nei vostri SMS. Allora, se capisco bene tutto il coacervo delle normative, perdoni avvocato, allora, se sono in macchina con persone conviventi, il marito, la moglie, i figli, posso fare quello che voglio, possiamo stare in macchina tanti quanti, è consentito dal libretto di circolazione, se siamo conviventi. Se non siamo conviventi, dobbiamo viaggiare distanziati, quindi ad esempio io davanti, mia suocera sul sedile posteriore, è corretto? In realtà diciamo che questo tipo di istruzioni, anche qui bisogna seguire il principio di precauzione ed è corretto quello che hai detto, Mauro. Il problema è che quando c'è, come in questo momento, un minimo di allentamento, poi si lascia un po' troppo fare di testa propria e quindi poi alla fine i controlli sono, latitano. Però di fatto dovrebbe essere così. Deborah. Un ascoltatore scrive: se vado a trovare un amico a casa sua mi devo tenere a distanza. Io adesso cercherei anche, se possibile, di fare delle domande, non perché non sia intelligente quella di Mario, ma è ovvio che dipende anche che relazione c'è fra questa persona, di che cosa parliamo quando parliamo di tenersi a distanza. Lei va a casa del suo amico perché gli deve stare appiccicato con le braccia addosso tutto il tempo? Stiamo in una condizione di normalità come stavamo prima, a cena, distanziati, possibilmente non toccandosi. Adesso non è necessario portare le mascherine in casa. Le visite tra amici sono state sdoganate da diverse settimane. Io peraltro a Milano vedo già in molti locali, anche all'aperto, comunque tavoli pieni di amici dove si fa l'aperitivo, dove si mangia insieme, per cui credo che anche qui nessuno ci sanziona se portiamo avanti le nostre abitudini di amicizia, avvocato Vallefuoco, in casa propria o in casa di un amico. Come al solito, muoviamoci con buon senso, che è la parola che lei ha utilizzato anche questa mattina più volte. Assolutamente sì. Un conto, allora, se proprio dobbiamo dare delle indicazioni, adesso la grande divisione è luoghi pubblici o aperti al pubblico, esatto, e luoghi privati, luoghi di assembramenti lavoro e o meno luogo, brava, luoghi di lavoro e luoghi assolutamente privati. L'allentamento è proprio questo, il fatto che ci si possa spostare e si possa andare ovviamente a casa di amici, a cena a casa di amici, quindi anche perché sempre facendo riferimento, io purtroppo e per fortuna faccio una professione per cui precetto e sanzioni sono le cose che disciplinano il mio ragionamento. È evidente che il vigile urbano o il poliziotto non potrà entrare a casa privata a dire voi state troppo vicini, esatto, anche perché sarebbe una violazione di domicilio, no? Evidentemente. Non lo fanno più neanche all'aperto, figuriamoci in casa privata. Perfetto, dovrebbe avere un ordine di un giudice, quindi tutto quello che ne prevede. Però dal punto di vista invece del distanziamento sociale, quindi del luogo aperto al pubblico, del luogo di lavoro dove c'è la responsabilità del datore di lavoro, responsabilità sanitaria, abbiamo visto anche che sono stati adeguati i modelli 231 delle società, dove effettivamente c'è una responsabilità vera, anche una responsabilità di tipo penalistico, quindi su quello invece bisogna stare molto molto attenti. E la stessa cosa sui luoghi pubblici o aperti al pubblico, ma anche gli stessi negozi, per cui evidentemente devi indossare la mascherina e devi utilizzare il gel sanificante. E la stessa cosa quando si prendono delle macchine, ad esempio si dice il viaggio a noleggio eccetera, ecco, tutto questo deve tenere presente un livello di igiene e di pulizia e di attenzione ancora alto, perché un motivo c'è per cui il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dice che le misure sono prorogate a fine luglio, perché evidentemente c'è necessità di monitorare e di evitare che ci possano essere poi nuovi focolai, quindi certo. Focolai, certo. Avvocato, la interrompo perché siamo agli ultimi 10 secondi. In moto in due, conviventi ovviamente sì, non conviventi? Allora, sicuramente chiederanno e fermeranno le persone per chiedere se sono conviventi. se sono conviventi o se sono prossimi congiunti. Detto questo, io personalmente dico, insomma, se l'utilizzo, poi se in questi casi ci può utilizzare la mascherina, quindi diciamo il limite è abbastanza. Ma c'è già il casco, da. Sì, diciamo che potremmo tollerarlo. Grazie, Deborah, buon fine settimana. A lunedì. Buon fine settimana a voi, a tutti. A presto. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.